In questo martedì 16 dicembre, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore apre con lo sprint del redditometro, controlli entro fine anno. Mentre le aperture sono un po' diverse, il Corriere della Sera ha un'anticipazione, le indiscrezioni sul programma del presidente Juncker oggi al Parlamento europeo. Europa è ora di cambiare. Juncker, riesame delle regole su riforme e funzionamento del patto di stabilità. Apre su questo il Corriere della Sera. Per Repubblica, corsa al Quirinale, Renzi mette in campo anche la carta Prodi. Mentre il Fatto Quotidiano, Renzi 10 miliardi per i giochi, le mafie già si allenano, così anche Libero, mafia olimpica. Mentre il Messaggero, Olimpiadi, la sfida di Roma, anche Avvenire, un sogno olimpico oltre la corruzione. Mentre La Stampa, Renzi vede Prodi, un veto su di te, ma resti in campo. Il veto è quello di Berlusconi. Il Giornale, Prodi arma impropria. Come vedete, aperture tra la politica, l'economia e non solo. Io voglio invece con la cronaca tornare sulla vicenda del piccolo Loris ucciso, e il Corriere della Sera intervista, ed è la prima volta che parla in un faccia a faccia il padre. Il padre Davide Stival, intervistato da Fabrizio Caccia, pagina 21 del Corriere della Sera, dice: mia moglie era la madre perfetta, aveva premiato Loris, io non so se l'ha ucciso. Non crede più a sua moglie, vero, signor Stival? Inizia così l'intervista. Non so più a chi credere, a cosa credere. Quella mattina stessa del 29 novembre, o forse la sera prima, Veronica aveva premiato Loris. Capito? Premiato! Perché aveva preso 10 in storia e così gli aveva dato 2 euro per comprarsi una carta del Dragon Ball. Era proprio bravo mio figlio, pensi che si era segnato sul calendario la data del martedì successivo, 2 dicembre, quello era il giorno del colloquio dei genitori con le maestre. Lui si era messo a studiare di brutto perché ci teneva a fare bella figura davanti alla mamma. E la domanda a un certo punto di Fabrizio Caccia arriva diretta: l'ha ucciso Veronica, suo figlio? Signor Stival, non lo so, rispondi. Io devo credere a quello che mi dicono gli inquirenti, se non credessi a questo sarei già andato in carcere a trovarla. Però è come se stessimo parlando di un'altra persona, è questa la verità, perché Loris, noi due, l'abbiamo voluto con tutte le forze, non è vero che nacque per caso, anzi decidemmo di metterlo al mondo proprio per andare a vivere insieme definitivamente. E poiché lei era minorenne all'epoca, andammo perfino davanti al giudice dei minori a Catania a cercare la garanzia che poi non ce lo togliessero. Nega i problemi. Dopo anni di sacrifici col camion stavo per riavvicinarmi in Sicilia alla famiglia. Parla delle fascette, quelle fascette con cui Loris giocava. Con una mi ricordo che un giorno legò un serpente di peluche sopra la culla di Diego, che proprio oggi ha compiuto 3 anni. Ieri ha compiuto 3 anni anche l'altro fratello. Insomma, non so a cosa e a chi credere. E alla fine vuole dire qualcosa a sua moglie in carcere, preferisco di no. Parla per la prima volta il padre del piccolo Loris, lo fa con il Corriere della Sera, l'intervista la trovate a pagina 21 e esprime tutti i dubbi. Vabbè, a proposito di cronaca economica, se volete, l'apertura del Secolo XIX è una grande beffa, cari ascoltatori, una beffa per tutte le città alluvionate, perché il titolo è questo: alluvione, la tassa di Natale. Ebbene sì, si scopre anche dal Messaggero la beffa per i cittadini alluvionati. È scaduta la sospensione dei versamenti, dovrete pagare le somme dovute entro il 22 dicembre in un'unica soluzione, cari cittadini di Genova, per esempio. IVA, IRES, IRPEF, IRAP, le tasse dello Stato vanno pagate. Dopo tante belle parole, il governo non dà scampo agli alluvionati di tutta Italia e con un decreto blocca ogni speranza di ogni ulteriore proroga degli adempimenti fiscali. Alluvionati che in moltissimi comuni, non a Genova però, dove è stato deciso, ecco, rinvia a febbraio, Genova è salvata, in altri comuni dovranno pagare pure le tasse locali, a meno che i sindaci, da qui al 20 novembre, non prolunghino le scadenze delle varie tasse e tari. Quindi appellate ai vostri sindaci, se no pagare, anche se siete comuni alluvionati. pagare, anche perché il debito, ci fa sapere il Corriere della Sera, il debito, sapete quanto è salito? Lo scrive Antonella Baccaro a pagina 3 del Corriere, il debito pubblico 2.157,5 miliardi di euro, 2.157,5 miliardi di euro, nel solo mese di ottobre il debito pubblico è salito di 23,5 miliardi di euro. Io come al solito metto a disposizione 2 eurini, non ho di più, scusate, non ho di più, li metto lì a disposizione se volete. Voglio saltare al Giornale, dove voglio segnalare 2 articoli, uno dei quali è veramente non da mani sul volante, da mani ovunque, ve lo preannuncio. Anche questo non è male, era già stato anticipato dal Fatto Quotidiano. Oggi il Giornale torna sulla vicenda del Friuli Venezia Giulia, dove c'è l'ultima follia. Cari ascoltatori, il rimborso pure ai consiglieri assenti. In Friuli Venezia Giulia, voto bipartisan su un emendamento che permette ai consiglieri assenti, malati o in vacanza, poco importa, di farsi rimborsare le spese di mandato. Ripetiamo, per chi non ha capito, scrive il Giornale, un consigliere o una consigliera della regione Friuli Venezia Giulia che non si presentano alle sedute d'aula, indipendentemente dalle scuse che accampano, anche maternità, paternità, lutti, possono chiedere il rimborso di spese mai sostenute come taxi, biglietti aerei, ferroviari, bar, ristoranti. Oh, ma uno dice, ma dopo tutto quello che succede nelle regioni? E niente, niente, impuniti. Avanti, avanti così, avanti così. Ma siamo appunto al premio Mani sul Volante, l'articolo che mi fa più incazzare di questa giornata. E oggi guardate che quello che racconta Stefano Zurlo, io l'ho dovuto leggere dal titolo e poi nella cronaca 3 volte perché non ci credevo, eppure è tutto vero. Già il titolo dice tutto. Abusò di una bambina di 7 anni, ma lo Stato lo assume come professore alle medie. Stefano Zurlo inizia proprio così l'articolo, è una storia odiosa, come può essere quella di una violenza sessuale su una bambina di 7 anni. E ancora più sconvolgente è il seguito. Lui oggi insegna in una scuola media a Torino, con tanto di contratto a tempo indeterminato, docente di ruolo, professore di matematica. Così da 3 anni a partire dal 2011. Sembra incredibile, ma la condanna definitiva non ha scalfito la sua carriera. Peggio ancora, l'uomo non ha nemmeno pagato la provvisionale a suo tempo stabilita dai giudici, 27.000 euro, e così i familiari di questa bambina sono stati costretti a pignorargli lo stipendio. Una vicenda dolorosa, straziante, che inizia in un'estate del 98 quando la mamma manda la figlia in vacanza in un kinderheim a Lignano Sabbiadoro. Qui l'animatore le mette ripetutamente le mani addosso, la bimba torna a casa sconvolta e racconta tutto. E l'uomo viene condannato, ovviamente coi tempi della giustizia, la condanna arriva solo nel 2004, 3 anni e 6 mesi di carcere. In appello nel 2007 la pena scende, quasi dimezzata, 1 anno e 8 mesi. Insomma, l'animatore che ha abusato di una bambina indifesa va avanti come se niente fosse. E oggi l'avvocato della famiglia, Roberto Ponzio, dice: abbiamo deciso di rendere pubblica questa storia perché è una vergogna durata troppo a lungo ed è scandaloso che questo signore abbia trovato un posto di lavoro a carico del contribuente, cioè nello Stato, per di più nel delicatissimo mondo dell'educazione e della scuola. Ebbene, non ha mai scontato un solo giorno di prigione, ha solo lo stipendio pignorato per 1/5 della retribuzione mese dopo mese perché deve pagare, visto che non aveva pagato questo, ed è un insegnante di scuola media di matematica a Torino. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Oh, Sandro Milan, il flagello di Dio dell'informazione. Eh già, allora sono le 7:33 minuti, continuiamo nella lettura dei giornali E ripartiamo dalle Olimpiadi, tema che affronteremo poi alle 8:15. Beh, molti quotidiani aprono proprio su questo, l'annuncio di Renzi che Roma e l'Italia, Roma, Genova, Napoli, la Sardegna vogliono tentare di correre alle Olimpiadi del 2024. Ovviamente una corsa che poi verrà, credo, assegnata nel settembre 2015, quindi mancano 9 mesi, 10 mesi prima dell'assegnazione, però la candidatura è lanciata. La corsa ai giochi, tutti i segreti della diplomazia, pagina 17 del Corriere della Sera, è Gaia Piccardi che racconta come presidenti, ex presidenti, ministri, ex ministri, molte mostrine, troppi baci tra uomini, qualche Loden arrivato dal nord, Suor Paola, Letta, Gianni, lo zio, un manipolo di atleti straniti che si chiedono cosa ne sarà di loro nel lontano 2024. Eccola qui riunita nella splendida cornice dei collari d'oro, la platea del più grande spettacolo dopo il weekend. Ci candidiamo. Applausi, buone feste a tutti, sipario. Ecco, inizia così l'articolo dell'annuncio della candidatura dato dal Presidente del Consiglio Renzi, e ovviamente dietro le quinte che fatta l'Italia, oltre agli italiani bisognerà fare lobbying, e cioè cercare di fare le pressioni giuste per ottenere poi e vincere questa candidatura. Racconta il Corriere nel 95 la denuncia di una gola profonda. L'ex presidente della Federsci Mondiale portò alla luce i brogli di Salt Lake City, dove per avere i giochi invernali 2002 la città dei mormoni offrì borse di studio ai figli dei membri del CIO. Ad Atlanta 96 furono i soldi della Coca-Cola decisivi. Ad Atene 2004 non fu immune dal vizietto, un'inchiesta della BBC smascherò la corruzione di un membro bulgaro. Sydney ottenne i giochi 2000 ungendo con $50,000 due membri del CIO africani. E il colmo dei colmi fu anche una fantoziana svista del membro CIO greco Lambis Nicolaou nel 2005. Prevalse Londra su Madrid, lui voleva votare Madrid ma per sbaglio schiacciò il pulsante Londra. Insomma, c'è anche questa aneddotica incredibile nell'assegnazione dei giochi, perché tutti ora dicono non c'è Olimpiade senza corruzione, non c'è grande evento senza appunto dover ungere qualcuno, e allora ci si chiede se sia necessario proprio in questo momento in cui si parla molto di corruzione lanciarsi in questa nuova avventura. Renzi dice basta, l'Italia rassegnata, bisogna cercare di rinascere, di risorgere, di rilanciarsi. Salvini della Lega dice è una follia. E insomma già l'Italia si divide su questo. Anche il Fatto Quotidiano: da Atene a Pechino i giochi portano corruzione e sprechi. Questo si legge a pagina 5, visto che la crisi della Grecia comincia proprio dalla manifestazione delle Olimpiadi del 2004, quelle del centenario, la Cina fatica ancora a gestire l'eredità del 2008. Insomma, come dire, non lasciamoci tentare da queste sirene, perché portano nuova corruzione, nuovi sprechi. Comunque la pensiate, alle 8:15 ne discuteremo. Intanto il giorno ha visto, la giornata di ieri politica ha visto segnare certamente l'incontro tra Renzi e Prodi come elemento centrale della giornata, tutti a interrogarsi di che hanno parlato. Certo, stando alla comunicato del Presidenza del Consiglio, hanno parlato di attualità internazionale, hanno parlato un paio di ore. L'incontro con Prodi, è inevitabile che il discorso sia finito anche sul Quirinale, dopo che Prodi fu impallinato dai cosiddetti 101 la scorsa elezione, che poi ha riportato alla riconferma di Giorgio Napolitano. Ebbene, Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera racconta: il professore disse al Premier non voglio più essere bruciato. Questo ha detto Prodi a Renzi. Prodi, che peraltro uscito da Palazzo Chigi, ha commentato un po' ironico: questo palazzo lo conosco bene. È La Stampa, il giornale con Fabio Martini, che ha il retroscena da questo punto di vista più succoso. Renzi a Prodi: serve un presidente di garanzia, ma Berlusconi non ti vuole. Così Prodi si sarebbe sentito dire dal Presidente del Consiglio. Due ore a Palazzo Chigi si è parlato di politica estera, ma a un certo punto Renzi ha detto a Prodi, per quel che riguarda il Quirinale: caro Romano, lo sai, io non posso blindare alcuna soluzione, credo che serva un Presidente di garanzia, ma Berlusconi ha espresso un veto nei tuoi confronti. Certo, se dopo le prime votazioni si determinasse un impasse, a quel punto dovremmo andare su un piano B e il candidato più autorevole saresti tu. E però Prodi ha detto: non voglio essere bruciato. Secondo Repubblica, il retroscena firma Francesco Bei e Goffredo De Marchi, se lo trovate a pagina 8 e 9, Renzi ha incontrato Prodi soprattutto per lanciare due messaggi. Il primo messaggio rivolto a Berlusconi: perché noi lo staremo a sentire sull'elezione del capo dello Stato, ma non possiamo accettare veti di alcun tipo, tantomeno sul Quirinale. Il secondo messaggio di Renzi invece è interno al Partito Democratico, a Pippo Civati, a tutta la minoranza, ai Bindi, a Cuperlo, che potrebbero tentare la carta ulivista, cioè dell'Ulivo, e quindi Prodi. Nessuno può pensare di usare la candidatura di Prodi contro di me. Sono io il primo a incontrarlo e se c'è da parlare con qualcuno lo faccio direttamente. Come dire, Renzi ha voluto incontrare Prodi per non fare in modo che la carta Prodi diventi la carta della minoranza del suo partito. La reazione di Berlusconi verso lo strappo, secondo Repubblica: se il premier fa da solo non voteremo le riforme. Vabbè, insomma, vi dovete accontentare da qui ai prossimi due mesi, quando poi ci sarà le dimissioni di Napolitano, sarà tutto un profluvio di questo tipo di articoli. In tutto questo l'inchiesta di Roma va avanti, ci sono ancora tanti articoli sulla vicenda di Roma. L'articolo più importante, sia su Repubblica sia anche sul Messaggero, mette in qualche modo sotto critica e accende i riflettori sul ruolo del direttore del quotidiano Il Tempo, che risulta indagato. Si tratta di Gianmarco Chiocci. La soffiata che allertò Carminati, questo su Repubblica: attento, indagano su di te. Lui cercò di sfuggire alla cattura. Buzzi, intercettato, spiegava di aver avuto la notizia dal direttore del Tempo. In realtà il direttore del Tempo si difende, Gianmarco Chiocci dice: io volevo incontrarlo e avrei venduto anche mia moglie per incontrare Carminati, ma per una vicenda giornalistica, avrei voluto strappargli un'intervista. Se ho una notizia la pubblico, ribadisce Chiocci. È da un anno e mezzo che non frequento più palazzi di giustizia, né polizia né carabinieri. Ammette di aver incontrato Buzzi, non ricordo bene se proprio in quel periodo, ma del capo della COP 29 giugno, dice che ha spesso avuto il vizio di raccontare cose non vere ed esagerare oltremodo quelle che sapeva. Sta di fatto che, racconta Repubblica, dopo quella chiacchierata Carminati cambia vistosamente le proprie abitudini, diventa agitato, teme di essere preso, tenta la fuga e da qui l'arresto da parte dei carabinieri. A proposito della vicenda di Roma, c'è un articolo invece di Marco Lillo sul Fatto Quotidiano che recita così nel titolo: Carminati vantava un bonus con Daniele Della Roma. Ecco, è un'intercettazione del nero ercecato Carminati con Mario Corsi, detto Marione Corsi, ex dei NAR, voce storica, tifoso della Roma. Parlano in una macchina e parlano di un bonus che abbiamo con Daniele, e parlano di un esponente della Roma, insomma della Roma Calcio. Il Ross non lo identifica, poco dopo però registra: poi discutono della possibilità di raggiungere De Rossi, che si chiama Daniele, il vice capitano giallorosso. Ovviamente non è un 1 più 1 uguale 2, però certo il Fatto Quotidiano la mette così. Parlano e con questo accenno a De Rossi oppure a Pradè, dirigente della Roma, sta di fatto che questo viene messo come pulce a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Questa è la vicenda di Roma, e vabbè, insomma, ce ne sono. Mentre, attenzione, perché il Fatto Quotidiano riprende una vicenda che ha tirato fuori Gianantonio Stella, con tanto di replica di Laura Boldrini, presidente della Camera, e a pagina 2 pone questa questione politica, che viene posta anche da Libero a pagina 4. Ma perché Galan, Giancarlo Galan, che ha patteggiato una pena 2 anni e 10 mesi, ha restituito 2,6 milioni di euro, rimane deputato e soprattutto rimane presidente della Commissione Cultura? Galan, arrestato, presidente della Commissione Cultura. Il regolamento della Camera, come scrive Sandra Murri sul Fatto Quotidiano, impedisce alla presidente Laura Boldrini di toglierlo da quell'incarico e l'avvocato di Galan replica: perché mai dovrebbe fare alla Camera la cortesia istituzionale di dimettersi Galan se la Camera ha permesso che gli venissero messe le manette ai polsi? Abbiamo fatto ricorso in Cassazione e fino a quella data Galan resterà deputato con relativo stipendio. E a proposito di cultura, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Potrei dire oggi, guarda, commentando questo lancio, come sempre discutibile, che fai, ma mi faccia il piacere. Ecco, forse questo, prendiamo a prestito questa frase per di Totò, lanciare il film di Totò. Sì, abbiamo il film di Totò, ma anche perché ma mi faccia il piacere, insomma, su la cortesia istituzionale non è male. Anch'io avrei diverse cortesie istituzionali da chiederti, Alessandro, poi ricordami quando ci vediamo. Ti volevo dire, non è cortesissimo istituzionalmente la richiesta del redditometro, hai visto sul Sole 24 Ore oggi, dove praticamente il fisco sta un po' stringendo le maglie, riducendo anche gli spazi a disposizione per il contraddittorio. Tu fai così, fai spallucce, ma invece dovresti stare un pochino preoccupato. Comunque voglio parlarti di cose più allegre. Il prosciutto cotto italiano in Cina, non è una battuta, caro, è una svolta commerciale mica da poco. Lo raccontiamo oggi su Imprese e Territori perché ci sono alcune aziende italiane che hanno ottenuto il permesso di esportare i prosciutti, ma anche insomma altri prodotti di carne suina in Cina. Tu capisci quanto è vasto quel mercato e quindi quanto può essere promettente poter esportare il prosciutto colà. Hai pagato l'IMU? No. Guarda che è l'ultimo giorno. Ma non devo giorno. Pagarla, non devo pagarla, non ho niente da pagare. La TASI l'hai pagata? Sì, ma perché dobbiamo fare queste figure? Ho già detto ieri che l'ho pagata. Vabbè, allora, se per caso ti fossi sbagliato, guarda che oggi ti parliamo anche delle possibilità di ravvedimento operoso. Senti come suona bene questa cosa, ravvedimento operoso. Sembra una bella cosa. Sembra anche una bella cosa, vuol dire che torni pulito come un giglio, bianco come un giglio, non so come dire, ecco, mi vengono delle cose anche un po' della catechesi di una volta. Va bene, niente, tutto questo naturalmente sulle pagine di Norme e Tributi, dove ti raccontiamo anche come è andato il tutto lavoro. E a questo punto, nel dirti che sulle pagine di Finanza si parla di bla bla car, sai, quel servizio che consente di mettersi insieme per fare un viaggio, ecco, te lo dico adesso perché così mi consente di, non prima di aver celebrato naturalmente la grande prestazione della mia squadra ieri sera, finalmente rialziamo la testa, caro mio, e allora a questo punto traffico. Alessandro Power, Milan, pura energia al mattino. Pura energia, allora ne avrei bisogno, mancano 6 svegli all'alba e poi è Natale per quel che mi riguarda. Allora, andiamo all'estero, ovviamente. Le notizie dall'estero provengono soprattutto dall'Australia, dove ci sono state 16 ore di terrore con questo sedicente o non sedicente sceicco che ha tenuto in ostaggio una cinquantina di persone. Questo uomo di 34 anni poi è stato ucciso in un blitz dove purtroppo sono morte anche 2 degli ostaggi, 4 sono feriti, non si sa quanto gravemente, tra l'altro. E ovviamente tutti i giornali raccontano la paura di che cosa? Dei cosiddetti lupi solitari. Racconta per esempio Federico Rampini un profilo di chi fosse questa persona, Man Haron Monis, pregiudicato, sospetto jihadista, nota alla polizia, alla magistratura australiana, il ritratto perfetto del lupo solitario. Sto leggendo su Repubblica, a pagina 4. L'incubo di tutti i servizi di intelligence occidentali. Certo, aveva tutto per insospettire, infatti era ampiamente noto alle forze dell'ordine. Ma quanti ce ne sono come lui? Individuarne è un conto, ma è possibile metterli in condizione di non nuocere? Di certo il responsabile dell'attacco terroristico che ha scatenato il panico a Sydney non passava inosservato. Nel 2001 dichiarò di essere fuggito dall'Iran, dove secondo lui aveva lasciato moglie e figli tenuti in ostaggio dal regime. Ma una volta in Australia si era dato da fare per alimentare il suo dossier penale. questo sedicente ayatollah islamico e militante pacifista, come si definiva, al momento del sequestro era in libertà provvisoria su cauzione, incriminato per il ruolo nell'uccisione della ex moglie. Durante l'istruttoria disse: è un processo politico. Sostenne di essere stato torturato in carcere, aveva altri precedenti per molestie sessuali da parte delle sue pazienti. Infatti in passato era stato un guru esperto di meditazione, magia nera, astrologia. Insomma, come vedete, un profilo alquanto discutibile, però si parla di questi lupi solitari. Anche Guido Olimpio sul Corriere della Sera: dall'Oceania al Califfato, la carovana dei fanatici pronti a uccidere per la jihad. Sarebbero almeno 200 i mujahideen degli antipodi in marcia con mogli e figli. Questo scrive Guido Olimpio. Certo, il terrore. È interessante che cosa fa la stampa, che mette a pagina 5 le paure dell'Europa, con Tonia Mastrobuoni, quello che è successo ieri in Germania, dove oltre 10.000 persone hanno marciato a Dresda nella manifestazione promossa da Pegida, un movimento che è un movimento dei patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente. Ora, capite che, come scrive la stampa, sentire slogan come «Noi siamo il popolo», oppure Deutschland, Deutschland, vedere sfilare a fianco a queste persone anche frange estreme di neonazisti ha creato e crea un certo qualche scalpore per quel che succede in Germania. Questo movimento è nato a ottobre a Dresda, è divenuto ormai un appuntamento fisso, quella delle contestazioni contro l'islamizzazione dell'Europa, diventa sempre più popolare anche in altre città della Germania come Düsseldorf, Colonia, Ulm. Ed è un movimento, scrive la stampa, sempre sul filo dell'equivoco, soprattutto poi quando si tratta di Germania. Comunque, questo è quello che scrive la stampa a pagina 5. Mentre invece una notizia che arriva dalla Cina ed è scritta dal quotidiano nazionale, dal Giorno, a pagina 19, riguarda la pena di morte in Cina. Sentite questa storia, Beniamino Natale la racconta. In una rara ammissione dell'inefficienza del sistema giudiziario, la Cina ammette di aver mandato ingiustamente al patibolo un ragazzo di 18 anni, condannato a morte per un crimine che non aveva mai commesso. Il giovane, di origine mongola, di etnia mongola, usava un solo nome, era stato giudicato colpevole di aver ucciso una donna dopo averla violentata. Come spesso avviene in Cina, la condanna si era basata sul rapporto della polizia secondo il quale il ragazzo aveva confessato la propria colpa. Ora il governo cinese dice: la confessione fu estorta, tutto chiuso, con un indennizzo di 3.900 euro 18 anni dopo, 3.900 euro alla famiglia di questo ragazzo ucciso dallo Stato. Voi che siete per la pena di morte, voi che ascoltate, alcuni di voi lo so, molti di voi lo so, siete per la pena di morte. Barbari, barbari! Leggete questa storia sul quotidiano nazionale, andate a dirgliela a quella famiglia. Barbari. Vabbè, torniamo in Italia. Anzi no, rimaniamo all'estero, dove c'è una notizia invece succosa sul Corriere della Sera, a pagina 27. È il banchiere cacciato dalla City, si chiama Jonathan Burrows, manager, 40 anni. Perché? È stato sorpreso in flagranza di reato dai controllori della stazione dei treni per 25.000 euro risparmiati, perché in 5 anni non ha mai pagato il biglietto del treno. Gli è stata data una multa da 54.000 euro, quindi 25.000 euro risparmiati in questi 5 anni da portoghese sui treni, alla fine gli vanno a far costare una multa che vale il doppio, 54.000 euro, ed è stato bandito dalla City. Ed era uno che faceva molti soldi, era molto bravo, ma il suo comportamento è stato giudicato improprio e scorretto, tanto da bandirlo dall'esercitare ogni funzione all'interno del miglio quadrato. E quindi bandito dalla City questo banchiere, perché non pagava il treno. Mentre invece c'è una vicenda di cronaca che riguarda Cuffaro, ieri l'ha tirata fuori questa vicenda Il Giornale, che oggi ci torna, la vicenda è abbastanza incredibile. C'è un giudice che ha negato, questa è la vicenda per sommi capi, un giudice che ha negato una visita della madre di Totò Cuffaro in carcere con questa motivazione, detta ovviamente molto in burocratese eccetera, ma il succo è questo: la mamma di Totò Cuffaro ormai è gravemente malata, tanto che non riconosce più le persone e quindi non va in carcere, tanto non riconoscerebbe neanche il figlio. Ora, questo caso è deflagrato, lo stesso ministro della giustizia ci vuole vedere chiaro. Caso Cuffaro, Orlando indaga sulla visita negata alla madre dopo la mobilitazione. Il magistrato ha scritto con una motivazione shock: la madre di Cuffaro ha demenza senile e dunque non riconoscerebbe neanche il figlio. E per cui negata la visita al carcere. Se questa è la motivazione, io c'è da rimanere costernati a dir poco. Vabbè, è arrivata per Ferrero Hervé Peretta, la squalifica a 3 mesi per il famoso filippino a Toir. Sapete che gli ho detto a Moratti: cacciate via il filippino, che in realtà poi è indonesiano. Comunque, 3 mesi di deferimento al presidente Blucerchiato, che dice: siamo su scherzi a parte. E vabbè, che dobbiamo fare? Siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un articolo che andrebbe commentato col celebre urlo di Giannino: basta! Basta! Basta! Ebbene sì, oggi la carta costa va all'ennesimo articolo. Dino Martirano, oggi sul Corriere della Sera, una pagina fitta, intera, sulla clausola che attiva l'Italicum, dunque la legge elettorale nel 2016. Ma chi se ne frega!